La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Il silenzio e la natura. Ermanno Olmi, se potesse consegnare le chiavi della felicità, direbbe che passano da qui e che la prima volta dovrebbe essere in questo senso infinita. La storia che ci ha raccontato in tutti i suoi film è una storia di un amore materno tra la terra e l'uomo. La prima volta che Olmi si è innamorato di questa storia è stato tanti anni fa, quando anche le città erano più silenziose. E in fondo, questa prima volta passa proprio da questo tema, quello del silenzio. Con tutta, come dire, la comprensione che ho per questi ragazzi, non solo ragazzi, quando li vedo girare con dentro le orecchie questi auricolari, isolandosi nell'ascolto di una musica che può essere pur bella, ma non esiste solo quello. Voglio dire che i rumori che la natura produce, anzi, mi perdoni, i suoni che la natura produce sono musica. Tanto è vero che se noi guardiamo nella storia della musica, quando non c'erano le tecnologie che producevano rumori molesti o silenzi pneumatici, ecco, la musica era chiaramente ispirata a questi suoni della natura. La natura è dunque soprattutto silenzio, è un tempo scandito dai colori, dai profumi, perché il racconto della vita a contatto con la terra è l'unica possibilità di salvezza, ci racconta Ermanno Olmi. E perché l'uomo non ha alternative a questo destino, e siccome è un destino, come dire, in qualche modo imposto dalla vita stessa, quando uno viene al mondo si fa carico di questo destino. E quindi facciamo in modo che questo destino non sia soltanto il sudore per coltivare la terra o il dolore per partorire, come dice il Vangelo, ma che sia, come dire, in qualche modo motivo di felicità, di stupore, di gioia, che è nelle possibilità reali. Infatti basta guardare come la natura si propone al nostro sguardo per capire la meraviglia che c'è in questo mistero della vita. Invece ci facciamo distrarre troppo spesso, come dire, da bellezze effimere, quelle bellezze che non salveranno mai, come dire, le sorti dell'uomo. La prima volta che Ermanno Olmi gira un film lo fa partendo dal suo mondo, dalle sue montagne e dai suoi silenzi. Sarà il punto di partenza mai raggiunto come arrivo. Il lungometraggio si intitola Il tempo si è fermato. Ambientato in Val Camonica, racconta l'isolamento di due operai, un padre di famiglia e un operaio studente, che convivono come guardiani d'inverno su una diga. Olmi, alla regia, ha solo 28 anni. Buonasera. Manda il geometra Cattaneo a sostituire Pedrazzini. Mi chiamo Roberto Seves. Sono arrivato 2 minuti fa. Ho trovato la baracca perché ho visto il fumo. Ma perché mica gli sciuli Pedrasini? Ma come, non lo sa? Ha avuto un bambino stamattina, sua moglie. È stata una cosa improvvisa. Non se l'aspettava nessuno, mancavano ancora 2 mesi. E invece, un settimino. Questo senso d'amore per la natura che si sente nei primi film di Olmi torna sempre, sino a trasformare radicalmente lo stesso Olmi, fino a fargli pronunciare in una celebre e bellissima puntata Rai di Che Tempo Che Fa queste parole. Ho avvertito la responsabilità di porre all'attenzione mia innanzitutto e poi spero agli altri, ecco, questo rapporto che noi abbiamo oggi con la Terra. Credo che siamo arrivati al punto in cui dobbiamo decidere cosa fare di questa nostra madre. Questa nostra madre che ha mantenuto le sue promesse sempre. Noi, come figli, spesso non le abbiamo mantenute. Non solo, ma addirittura qualche volta abbiamo persino, come capita con la propria madre, sentito quasi un senso di rifiuto nei confronti della sua presenza soccorrevole, amorevole. Però oggi dobbiamo prendere atto che la situazione è seria, per cui dobbiamo decidere responsabilmente tutti, come singoli cittadini, ad ogni livello di responsabilità, cosa fare di questa madre. La prima volta. Marinaio di foresta, senza sonno e senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni. Ermanno Olmi nasce a Bergamo, ma cresce a Treviglio. Il padre è un ferroviere, ma morirà in guerra quando Ermanno è ancora piccolo. La madre è un'operaia. Olmi va al liceo scientifico, poi si sposta all'artistico, ma non finisce gli studi. Ancora ragazzo, da Treviglio va a studiare recitazione all'Accademia d'Arte Drammatica di Milano e per vivere lavora alla Edison, la ditta in cui la madre fa l'operaia. Ermanno però non lavora alla catena di montaggio, lavora in ufficio. Si occupa di organizzare attività ricreative per i dipendenti. È lì che inizia a girare. Documenta la vita in fabbrica, materiale che sarà poi ispirazione, anni dopo, del film Il Posto. Ma io questa storia, come dire, l'ho raccontata 50 anni fa con il film Il Posto. Dove diciamo allora la conquista di un posto era a portata di mano e addirittura in quella circostanza storica il posto era per tutta la vita. Ciò nonostante, questo ragazzo protagonista del film Il Posto, alla fine quando si siede alla scrivania ha come un sentore di dubbio. Il dubbio che forse quello che lui ritiene una garanzia non è affatto una garanzia, una rassicurazione per tutta la vita. Allora, diciamo, qual è l'indizio che volevo suggerire allora, 50 anni fa? Se noi diventiamo dipendenti nel senso letterale del termine di un'azienda, di una società, di una cultura conformistica, ecco, abbiamo già rovinato la nostra vita. Quindi prima o poi queste garanzie ci verranno a mancare e saremo sprovvisti da ogni capacità di risoluzione dei nostri problemi. E la busta? Santo cielo, ma se fai così anche l'esame siamo a posto. Guarda che tuo padre si è raccomandato ancora. Quanta gente nelle tue condizioni si bacerebbero i gomiti. Che se riesci ad andare dentro lì c'hai un posto sicuro per tutta la vita. Mi raccomando. fazzoletto ce l'hai? Sì. I soldi ti bastano? Ma non lo so. Buongiorno, Shuraida. Buongiorno. Come non lo so? Ma se ti ho dato 1000 lire. Sì, va bene, ma devo andare anche a mangiare, no? Ma diavolo, ma cosa vuoi spendere per mangiare? Non vai mica in latteria? Ma non lo so. Ma come non lo so? Sei sempre andato in latteria, no? Ma guarda quanti storie. In questa parte che avete sentito è ritratta l'uscita dalla cascina lombarda, quasi all'alba, un momento che corrisponde con la fine di una vita per il giovane protagonista del film Il Posto, che, una volta giunto in ufficio, si ritroverà a fronteggiare le meschinità di colleghi frustrati e alla fine le accetterà. Uè, ma te visto? Ma che roba te mazza? Arriva un pivello qualunque, te lo mettono subito davanti. E queste sono le solite ingiustizie del ragioniere. Sì, ah, ma io vado da lui, sai, caro mio, ma sono 20 anni che sono qui con questa barca di lampadina davanti che ne può di più di far sta vita a me. E stuccare anche a me. Stuccati un corno, ma devi stuccare a me, è la mia fila questa, vedi, ma te scherzi tu, eh? Eh no, guarda, io non lo ho più, porca miseria. E poi neanche, guarda, vado da lui e che dici che ci rilegge. Ecco così. Ragioniere. Dica. Volevo dire, per via di quel posto qui, della scrivania, io sono 20 anni che sono là in fondo con quella lampadina che rischio di rimetterci la vista. Non è mica giusto. Vedo di fare le cose per bene. Scusi, vede, è questione d'anzianità. Per via della scrivania, lei dovrebbe spostarsi dietro. Non le dispiace, sì. Vero? Lei capisce. Grazie. È il 1978. Ermanno Olmi, dopo anni di successi altalenanti e film talvolta bocciati dalla critica e dal pubblico, termina quello che per molti sarà un capolavoro assoluto, L'albero degli zoccoli. Girato in una cascina bergamasca, presenta agli italiani per la prima volta un mondo agricolo del nord come nessuno fino ad allora aveva fatto. Il film sarà premiato con la Palma d'Oro a Cannes. Non si ma la terra le macada, perché d'inverni la fa la pelle? Ma perché la fa la pelle? Per difendersi del freccio e la samia scappa fol col che di sotto. Ma sotto la terra è colda? Oh, sicuro, per famiglia mia la sumisa. Sa, vado il caio sulla carriola. La campagna, i suoni della lingua materna, i colori della natura. Ermanno Olmi è un uomo innamorato della vita, che guarda ai suoi film come se fossero l'impressione di questa storia d'amore. Se gli chiedi qual è l'inizio, ti risponderà che l'inizio, quella volta che la sua vita ha preso la direzione giusta, è coinciso con l'inizio di una storia d'amore ancora viva. Di quando, per esempio, raccontiamo una storia d'amore, la raccontiamo, diciamo, o perché la stiamo vivendo, perché l'abbiamo vissuta o perché vorremmo viverla. Tutti noi, credo, hanno, come dire, ciascuno di noi ha proprio, come dire, come condizione fondamentale, ineludibile per essere al mondo, tutti noi abbiamo bisogno di una storia d'amore, che sia un amore, diciamo, di coppia o per un amico, o amore verso la natura. Ecco, allora, quando noi raccontiamo queste storie, quante volte, per esempio, ne approfitto per vedere il cinema, una storia d'amore, noi, come dire, ci medesimiamo al punto di farci coinvolgere e assumere l'identità del protagonista della storia che stiamo vivendo. Io credo che molti, capiscono come sia importante questa storia d'amore tra uomo e la natura nel momento in cui qualcuno glielo suggerisce. E lei crede che l'uomo saprà scegliere di proteggere la terra dopo averla devastata per così lungo tempo? Guardi, questo non lo so. So che comunque l'uomo qualche volta rovina lui stesso le sue belle storie d'amore. E quindi, come dire, c'è una condizione nell'essere al mondo, la sfida contro la stupidità. Ecco, allora è un po' colpa di tutti lamentarci di questa situazione, però questa situazione è per colpa di tutti. E quindi, diciamo, ognuno di noi dovrebbe accettare questa sfida, appunto, contro la stupidità, che comprende l'indifferenza, la pigrizia, l'irresponsabilità, e vivere la propria vita come una sfida contro la stupidità, e quindi raccogliere il pezzo di plastica abbandonato da qualche cretino a terra e tutte le altre azioni che ciascuno di noi può compiere. Quindi è giusto lamentarci della situazione, ma dentro questo lamento ci siamo anche noi come responsabili, e quindi diamoci una regolata. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per averci ascoltato e seguito, e soprattutto vi ringrazio per le bellissime mail che ci inviate all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci andando sul sito di Radio 24 cercando la pagina della prima volta. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Ma se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, e quante volte hai chiesto aiuto, ma non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti conquistare.